La musica è quella dell'inno ufficiale composto da Monsignor Mario Frisina per l'anno centenario di Giuseppe Sarto, Pio X. A proposito di musica, c'è una serie di eventi musicali proprio nei luoghi di Papa Sarto. Dopo quello iniziale nella chiesa arcipretale di Rese Pio X sabato 8 marzo, quello a Tombolo sabato 15, anche nei successivi sabati di Quaresima ci sono altri appuntamenti. Il 22 a Salzano alle 20:45 sul Movimento Ceciliano il repertorio corale e organistico con il coro femminile Magnificat di Santa Maria di Sala, il coro parrocchiale di Stigliano, direttore Roberta Bortolozzo, all'organo Giovanni Feltrin. Sabato 29 nella cattedrale di Treviso, sempre con l'organista Giovanni Feltrin e l'orchestra regionale Filarmonia Veneta diretta da Marco Titotto, la riforma della musica sacra di Papa Pio X nell'ambiente musicale italiano dell'epoca. Si proseguirà sabato 5 aprile a Castelfranco Veneto, altro luogo, altra città di Pio X, con lo Stabat Mater per soli, coro e pianoforte di Licinio Refice, con il soprano Elisabetta Battaglia, il tenore Li Yanfeng, il coro filarmonico Veneto, al pianoforte Giovanni Valle, direttore Valentino Miserax Grau. Un appuntamento successivo poi sarà nel mese di ottobre, ma avremo tempo di ricordarlo. Questi concerti precedono e fanno da vigilia nei luoghi che ho detto, nelle parrocchie in cui San Pio X ha avuto un ruolo, precedono i pellegrinaggi vicariali che proseguono per quanto riguarda la diocesi di Treviso. Dopo quello di apertura del 9 marzo a Rese Pio X, la seconda tappa è Tombolo domenica 16 per i vicariati di Castello di Godego, Asolo e Campo San Piero. Il programma prevede circa un'ora e mezza di presenza con la preghiera del Vespro presieduta dal parroco, la predicazione di Monsignor Stefano Chioatto e la preghiera a San Pio X, il bacio della reliquia. A seguire la benedizione, il canto finale e, per quanto riguarda Tombolo, la visita al museo che è allestito nella chiesa parrocchiale. Domenica 23 marzo l'appuntamento, sempre alle 15:30 nella chiesa di Salzano, per i vicariati di Mirano, Noale e Mogliano Veneto. Qui sarà visitato poi il museo San Pio X, adiacente la chiesa. Il 30 marzo in cattedrale Treviso, per i vicariati di Treviso, paese Spresiano, monastiere San Donà di Piave, con la visita poi al seminario vescovile della Cappella del Santo Curato d'Ars e della Biblioteca San Pio X, di cui Monsignor Chioatto è direttore. Prendo spunto da quello che ha scritto Don Antonio Guidolin sul senso di questi pellegrinaggi. Non intralcia il cammino della Quaresima, che è un autentico pellegrinaggio dello spirito. Se una delle grandi figure della Quaresima è Abramo, la vita di Pio X può essere letta proprio alla luce di un continuo pellegrinaggio verso quelle terre che il Signore gli indicò più volte nella sua vita. Così pure l'ultima parola che Gesù rivolse al primo Papa, Pietro, risuonò nella vita di Papa Sarto: seguimi. Andare pellegrini nei luoghi dove Don Giuseppe venne chiamato a esercitare il suo ministero ci ricorda che è sempre dentro realtà concrete che il Signore chiama a servirlo, realtà umane talora non facili o conformi ai propri gusti. Pio X arrivò al pontificato portandosi addosso l'odore delle pecore, quello citato da Papa Francesco. Se il popolo ne riconobbe istintivamente la santità fu forse proprio per questo suo essersi fatto pellegrino dentro le più varie realtà delle comunità cristiane. La disponibilità di Giuseppe Sarto nel rispondere con obbedienza alle varie chiamate ci interroga sulla nostra disponibilità a percorrere cammini nuovi dentro le nostre comunità, questo sia da parte dei preti come da parte dei laici. I quattro luoghi appunto dei pellegrinaggi vicariali sono legati a quattro tappe del cammino umano e sacerdotale di Rese Pio X. Giovanni Paolo II, quando fu a sua volta pellegrino nella casetta di Rese nel 1980, ricordò un dialogo avvenuto tra quelle mura. Beppi, non te gavarissi quell'aneo se non che fosse sta prima il mio. Così aveva detto mamma Margherita, la mamma di Papa Pio X, Margherita Samsung, indicando la propria fede nuziale al figlio, che era neo vescovo di Mantova, che gli mostrava orgoglioso l'anello episcopale. Giuseppe, non avresti quell'anello da vescovo se prima non ci fosse stato il mio anello di matrimonio. È un bel aneddoto che ci fa tornare anche alla semplicità, anche all'educazione che ricevete proprio dalla madre, Margherita, Giuseppe Melchiorre Sarto, che poi diventò papa per tutta la Chiesa universale col nome di Pio X e che quest'anno celebriamo nel centenario della morte.